E il maggiore era l'unico ad avere le idee chiare. Quando ci disse questa mattina c'è un lavoro da sbrigare. E la pianura era così immensa che non vedevi più la fine. E il sole bruciava le nostre spalle e dipingeva le colline. Il sole bruciava i nostri vent'anni, rubati ai monti e rubati al mare, messi su un treno una mattina per la leva militare. Ma perché mi hai fatto questo, Dio ladro di un Dio? Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. E alla stazione della ferrovia, occupata dai militari, c'erano troie e munizioni e i corpi dei più temerari. Quando una bomba di vapore annunciò il nostro arrivo, che se eravamo 5.000, oggi non so chi è più vivo. Quel giorno eravamo 5.000 e oggi non so chi è più vivo. Così il maggiore, che era l'unico ad avere le idee chiare, aveva occhi di deserto sotto al cappello da ufficiale. Questa è una guerra e capirete che così girano le cose, che come voi dall'altra parte ci sono uomini senza pretese, che come voi sull'altro fronte non è più tempo di mani tese. Speranze, volevo vivere e non morire. Che dietro alla sua alta uniforme, fresca di scuola militare, ci sono uomini senza vergogna, dietro alle nave del potere. Ci sono soldi che chiamano soldi e poveracci da ingannare. Mentre marciavo sul mio destino, con la morte nelle vene, pensavo a lei sull'Appennino e alle sue mani infatte di neve. T'avrei amato per una vita, t'avrei dato tutto me stesso. Ora che mancano pochi momenti, oggi si muore adesso. Avrei creduto fosse più semplice dimenticare invece di odiare.